incarcerato a Terni, e di Anan Yaesh, che condivide con Quan lo stesso carcere, la stessa sezione ad alta sicurezza, che è invece arrestato per la sua fondamentalmente militanza all'interno del movimento di liberazione palestinese e sulla cui testa pende una richiesta di estradizione da parte dello Stato israeliano. La puntata appunto la dedichiamo a queste due vicende che si intrecciano fra di loro in dei modi che andremo poi anche a provare a spiegare, che non sono semplicemente appunto diciamo la logistica della loro detenzione e anche il fatto che condividano ad esempio lo stesso avvocato difensore, ma ha a che fare anche con quello che succede al di fuori delle mura delle carceri, nella società italiana e nel mondo in guerra in cui viviamo, in cui fra l'altro va anche detto che il massacro, il genocidio in corso a Gaza ha da una parte rivitalizzato l'attenzione verso quella che è la situazione dei prigionieri palestinesi nel mondo, che non sono pochi, soprattutto anche in Europa, e con alcuni prigionieri di lunga durata, come pensiamo per esempio a George Ibrahim Abdallah, ma anche purtroppo ha portato nelle carceri europee e non solo nuovi prigionieri, nuove persone che vengono detenute anche per le loro azioni, per la loro partecipazione alla lotta anticoloniale e alla solidarietà con il movimento palestinese. E quindi la puntata si comporrà di tre contributi, un contributo con un compagno dal Trentino che ci aggiornerà un po', ci parlerà della situazione di Juan e della mobilitazione in suo sostegno. Manderemo un audio che per chi ascolta sulle frequenze di Onda Rossa probabile l'abbia già sentito perché è andato in onda ieri, ma ci tenevamo a riproporlo per la situazione che hanno Ali, Mansour e Anan. E infine un contributo dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, che è l'avvocato che segue entrambi i casi, sia quello di Anan che quello di Juan. E intanto ci ascoltiamo un pezzo. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para desollevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. que trileo el mapa. Mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. E abbiamo qua in studio con noi un compagno dal Trentino a cui chiederei di introdurci un po', spiegarci chi è Quan e perché si trova in carcere, quali sono invece le accuse in quest'ultimo processo che sta affrontando. Ciao a tutte e a tutti, grazie innanzitutto per l'invito e questa occasione. Allora, Quan Sorroce è un amico, un compagno anarchico, che è stato arrestato nel maggio del 2019 dopo circa 2 anni di latitanza. Era latitante per sfuggire ad alcuni definitivi di pena, i più consistenti legati alla lotta contro il TAV in Valsusa. Subito dopo l'arresto viene accusato e processato per un'azione contro la sede della Lega a Villorba avvenuta nell'agosto del 2018. All'inizio l'accusa per quell'azione era quella di strage. Questo vale la pena ricordarlo perché è indicativo dell'epoca in cui viviamo. Lo Stato italiano, lo Stato delle stragi, delle bombe nelle piazze, sui treni, accusa un compagno anarchico di strage per un'azione contro una sede della Lega, azione che, e questa è una constatazione oggettiva, non aveva provocato né morti né feriti. Questa accusa cade nel corso del processo. Quella che rimane in piedi è l'accusa di attentato con finalità di terrorismo, per cui in primo grado Quan è stato condannato a 28 anni. A nostra memoria, se non la più alta, una delle più alte pene inflitte per un'azione di questo tipo in Italia. Da allora è detenuto nel carcere di Terni, nella sezione di alta sicurezza, e qualche mese fa si è visto recapitare una nuova inchiesta che poi è diventata un processo vero e proprio, che è cominciato il 16 luglio, questa volta per un'azione contro la Polgai, una scuola di polizia di Brescia. Azione avvenuta nel 2015. Per quell'azione lì era già stato indagato senza esito ben 2 volte, adesso ci provano per la terza volta, però siamo oltre l'indagine, siamo all'inizio del processo vero e proprio. Quindi questa è, diciamo, in estrema sintesi la situazione di Quan. Quindi parliamo di un compagno che abbiamo avuto a fianco per tanti anni nelle lotte, a cui ha dato sempre un contributo generoso, e già adesso si trova con un fine pena che è 2049 e è sottoposto a un nuovo processo, di nuovo con l'accusa sempre di finalità di terrorismo, ma questa volta di atto con finalità di terrorismo. La qualcosa prevede, in caso di condanna, pene pesanti. Di conseguenza abbiamo cominciato a mobilitarci con una serie di iniziative di solidarietà. Sì, ma io ti chiederei già se tu hai voglia di parlarci di queste iniziative di solidarietà a Juan. Io ricordo anche che dopo l'accusa dei 28 anni era stata ridimensionata anche la, la pena, diciamo. In appello, 17 anni, mi sono dimenticato di dirlo. Esatto. Certo, sì sì. Ok, e magari io manderei un pezzo giusto per staccare un attimo e poi se voglio parliamo dell'aspetto della solidarietà da fuori e come si sta cercando di appoggiare il compagno dentro. Volentieri. E adesso insomma se ci vuoi spiegare un po' come sta venendo impostata la campagna, chiamiamola così, di solidarietà nei confronti di Quan, quali sono diciamo le riflessioni che stanno muovendo i compagni fuori rispetto a come portare l'attenzione e con che contenuti rilanciare anche appunto la solidarietà in occasione del processo e come si sta rapportando questa cosa a quello che succede al di fuori, visto che rispetto anche a quando il compagno è stato arrestato e è finito in carcere sono cambiate varie cose nella società, nel mondo in cui siamo, anche dentro le carceri va anche detto, e se puoi fare magari appunto una spiegazione di questo. Sì, volentieri. Allora, il taglio delle iniziative di solidarietà è il frutto di un confronto tra noi compagni e compagni fuori e Quan. Ovviamente per noi non avrebbe senso scollegare questo processo dal contesto più generale in cui si inserisce oggi, un contesto di guerra, di tendenza strutturale alla guerra, di genocidio a Gaza, di pulizia etnica in Cisgiordania, di stretta repressiva nella società, diciamo di militarizzazione della società come riflesso interno del fronte esterno della guerra vera e propria, perché è evidente che un sistema in guerra non affronta il conflitto sociale, il dissenso, nella stessa maniera in cui lo affronta in periodi in cui non c'è un'accelerazione così spinta, così brutale verso la guerra. E quindi collocare la solidarietà a Juan dentro questi ragionamenti complessivi contro la guerra, cogliendo anche quelli che sono degli intrecci oggettivi, anzi un intreccio tra parabole esistenziali e parabole storiche. Tanto per fare degli esempi, la Polgai, questa struttura di polizia, questa scuola di polizia, viene creata a Brescia nel 1974, subito dopo la strage di Piazza della Loggia. Quindi un collegamento storico immediato tra la natura stragista dello Stato e il ruolo della polizia è legato proprio alla storia di questa struttura. In questa struttura, o a partire da questa struttura, con una serie di rapporti internazionali, si addestrano o si partecipa ad addestramenti comuni con le polizie di mezzo mondo, tra cui quella israeliana. Cioè la Polgai collabora con varie polizie, dai paesi arabi a quelli europei, per arrivare allo Stato di Israele, nelle tecniche di controsommossa, controguerriglia, di cosiddetto controterrorismo. E questo è un altro elemento che colloca questo processo dentro la storia attuale. Se a questo aggiungiamo che nel frattempo, assieme a Juan in carcere, è finito un prigioniero palestinese che è Anan, gli intrecci tra repressione, guerra, genocidio, solidarietà e aggravamento della situazione repressiva è piuttosto evidente. Uno degli esempi che possiamo fare è che nell'attuale disegno di legge in discussione, il 1660, definito anche opportunamente legge Elmetto Manganello, si cerca di introdurre un nuovo reato chiamato terrorismo della parola. Quindi che in un contesto di guerra persino la parola diventi un elemento di terrorismo, e che sia un combattente palestinese, sia un compagno anarchico, rivoluzionario italiano, si vedano accusati entrambi di terrorismo, questo è uno sfondo storico a cui si può aggiungere, a proposito di intrecci proprio di storia, che nella sezione AS2 di Terni sono detenuti alcuni prigionieri militanti delle organizzazioni combattenti italiane della lotta armata, alcuni dei quali sono in carcere da oltre 40 anni e anche loro storicamente accusati di terrorismo attraverso quella svolta che non è stata soltanto semantica o giuridica, è stata proprio una svolta storica per certi aspetti, epocale, che è stata l'introduzione del concetto di terrorismo in Italia. Perché magari gli ascoltatori, le ascoltatrici più giovani pensano che da sempre di fronte a fenomeni di conflitto sociale, anche radicale, violento, anche armato, l'armamentario giuridico, giudiziario, repressivo sia sempre ruotato attorno al concetto di terrorismo. Non è così. Durante il fascismo non esisteva quel concetto, è stato introdotto nel 1980 con la legge Cossiga, cioè è la democrazia che ha introdotto il concetto di terrorismo, e oggi arriviamo 44 anni dopo al terrorismo della parola. Ecco, parlare di repressione di un compagno nostro sganciato da questo contesto sarebbe una cosa priva di significato e estremamente autoreferenziale, ed è esattamente quello che non vogliamo fare. Se a questo si aggiunge che il processo si svolge a Brescia e nei dintorni di Brescia, per l'esattezza a Ghedi, c'è una base dell'aeronautica militare, quindi parliamo del militarismo italiano e non soltanto di quello degli Stati Uniti, del militarismo italiano nel quadro della NATO, sono stipate bombe atomiche in grado di far saltare il pianeta non so quante volte. quindi dalle bombe atomiche alla complicità aperta, esplicita dello Stato italiano con il genocidio in corso in Palestina, l'invio di armi in Ucraina, che oggi diventano anche armi per colpire direttamente in territorio russo, un processo di terrorismo quando gli stati applicano a livello scientifico di massa lo sterminio programmato di intere popolazioni, è una cosa che va rispedita eticamente e politicamente al mittente, rimettendo al centro la differenza radicale, incommensurabile tra il conflitto sociale, la violenza rivoluzionaria e il terrorismo, che è faccenda degli stati. Sì, la situazione di Annan è legata anche a quella di Ali e Mansour, per cui ieri c'è stata una data importante, che era l'appello all'Aquila. Sì, riguardo a questo, appunto, che c'è stato anche un presidio in solidarietà che si è svolto davanti al Tribunale dell'Aquila. Mandiamo adesso in onda un breve estratto da un contributo di Radio Onda Rossa, che quindi appunto anche gli ascoltatori e ascoltatrici che ci seguono da Roma probabilmente avranno già sentito, che riassume, fa alcune considerazioni appunto al riguardo. Si trattava di un'udienza che avrebbe potuto decidere la scarcerazione di Ali e Mansour, perché il loro, diciamo, destino processuale, come spiegheremo anche a breve, come spiegherà anche il contributo, si è sganciato in parte da quello di Annan, per cui invece il carcere rimane ancora una concretezza, visto che rimane in carcere come misura cautelare in attesa del processo, mentre per loro ieri avrebbero potuto aprirsi le porte della prigione, ma l'udienza è stata rinviata. Mandiamo insomma in onda questo contributo. Benissimo, allora parlavamo con Vincenzo, che ci raccontava un po' dei pormenori, no, di questa situazione dei due detenuti, particolarmente sui quali si sta decidendo oggi lì al Tribunale dell'Aquila, per esempio con la possibilità di non essere stati mai tradotti veramente, no, con sempre il passaggio di mezzo della videoconferenza. Cosa ci puoi raccontare, come diceva Vincenzo, del processo che stanno affrontando questi due fratelli palestinesi detenuti da marzo qua in Italia? Allora, sì, oggi è questa udienza al Tribunale del riesame dell'Aquila. Entrambi, sia Ali Harar che Mansour Dogmosh, sono due dei tre palestinesi affettati in Italia, erano già stati davanti al Tribunale del riesame, che gli aveva confermato le misure cautelari. Quindi c'è stato un passaggio in Cassazione a luglio, dove la Cassazione ha deciso di annullare la decisione del Tribunale del Riesame, evidentemente perché quanto sostenuto dalla Procura risultava essere debole, o quantomeno la Cassazione ha deciso di annullare appunto la decisione del Tribunale del Riesame, quindi siamo di nuovo qui davanti al Tribunale in attesa di sapere le loro sorti. A noi pare palese che questo è nei fatti un processo politico in cui l'Italia si sostituisce a Israele, andando a reprimere qualsivoglia tipo di appoggio e sostegno alla legittima resistenza che porta avanti il popolo palestinese da oltre 76 anni. E l'arresto di questi due appare anche strumentale a voler creare un caso mediatico per arrivare a sostenere la presenza di un gruppo, quando poi è stata lo stesso Tribunale della Cassazione, la stessa Corte della Cassazione ad andare a anche nelle motivazioni a mostrare quanto siano deboli le tesi della Procura dell'Aquila. Quindi speriamo che nel corso di questa seduta si decida di scarcerare entrambi i palestinesi, Ali e Mansour. Per quanto riguarda il terzo, Annan, per il quale che è stato arrestato dietro richiesta israeliana, perché Israele appunto a inizio anno ha inviato all'autorità italiana una richiesta di estradizione ed è stato appunto arrestato in base a quella richiesta di estradizione. L'impressione è che una volta scampata l'estradizione, perché poi la Corte dell'Appello dell'Aquila ha messo nero su bianco, no, il fatto che fosse inestradabile perché rischiava di subire trattamenti inumani e torture nelle carceri israeliane, che le autorità italiane vogliano proseguire e portare avanti il lavoro per conto delle autorità israeliane. Per quanto riguarda Anan, probabilmente la sua carcerazione andrà avanti fino al primo grado di giudizio, però la seduta di oggi potrebbe decidere sulle sorti degli altri due. Ed è per questo appunto che ci troviamo in presidio qui davanti al Tribunale dell'Aquila. Già in passato l'abbiamo fatto sia per le udienze della Corte di Appello, del Tribunale del Riesame, l'abbiamo fatto anche per l'udienza in Cassazione a luglio con un presidio davanti alla Corte e con qualche giorno prima una partecipata manifestazione che ha percorso le vie di Roma chiedendo la scarcerazione dei tre e chiedendo che venisse messa fine alla collaborazione, alla connivenza da parte dell'Italia e di questo governo ad Israele, nello specifico anche nel corso di un vero e proprio genocidio che sta avendo luogo in Palestina. Certo, sì, io volevo soffermarmi o tornare a una cosa che hai detto, no? Particolarmente il fatto dell'Italia sostituendo allo Stato di Israele nel reprimere, nel combattere la dissidenza, la protesta del popolo palestinese all'estero, no? Ciò che dimostra o ha dimostrato con tutte queste vicende veramente un atteggiamento succubo dell'Italia rispetto all'Israele, essendo la mano, no, dell'Israele dove lo Stato sionista non ci può arrivare. Sì, esattamente. Poi nei fatti semplicemente si va a riflettere quelle che sono dinamiche più ampie. Poi in fin dei conti il ruolo che va ad assolvere Israele in Medio Oriente è quello di tutela degli interessi occidentali nella regione, per cui ovviamente si va a riflettere questa dinamica anche in questioni più piccole e più specifiche. Però quello che dà appunto crea molto sconforto è il fatto che pur di sostituirsi appunto ad Israele nel reprimere quello che è un diritto appunto legittimo dei palestinesi, si va addirittura contro allo stesso diritto internazionale, al diritto internazionale umanitario, che nei fatti contemplano e legittimano la resistenza dei palestinesi, così come legittimo va a legittimare appunto il diritto internazionale la resistenza di qualunque popolo posto sotto occupazione militare, qualunque resistenza volta perseguire l'autodeterminazione e la fine di un'occupazione, per cui è contemplato dal diritto internazionale, dalle convenzioni di Ginevra, dalla stessa carta dell'ONU. Evidentemente la invece qui pur di andare a tutelare quelli che sono gli interessi israeliani, conta più la decisione di le teorie della procura, con tutto il rispetto, dell'Aquila, che dei principi di diritto internazionale che provengono da convenzioni e dalla stessa carta dell'ONU, tra l'altro. Certo. Per cui questo è quello che rende tutto ancora più, sconcertante. Sì, e poi c'è un'altra cosa, il livello, credo io, cioè mi permetto di dirlo, di delirio a volte per giustificare questo, le violazioni al diritto internazionale, no? Da tutti questi collaborazionisti dello Stato sionista di Israele. Penso per esempio alla richiesta che ha fatto Giovanni Donzelli, no? Responsabile dell'Organizzazione Fratelli d'Italia, per impedire la manifestazione del 5 qua a Roma, perché secondo lui è una manifestazione per inneggiare, per festeggiare gli eventi del 7 ottobre, cioè non capendo niente o facendo finta di non capire niente, e ripeto, di utilizzare degli argomenti che sono assurdi, imbarazzanti e quasi insultanti, direi, per la causa palestinese, o per provare a fermare, come dicevi, il diritto internazionale del popolo palestinese a resistere. Sì, questo da un lato, perché come già detto, quello a resistere è un diritto riconosciuto, e in secondo luogo pare quasi che si stia reintroducendo il reato di opinione in Italia, per cui non soltanto sul piano di dare un appoggio, un sostegno a una legittima resistenza è criminalizzato, si sta andando un passo oltre, anche mostrare un appoggio un appoggio o dimostrare appunto di credere nel diritto a resistere dei palestinesi sta venendo criminalizzato anche quello, per cui quello che sta accadendo appunto in questi giorni è in completa sintonia con l'andamento generale purtroppo delle cose che stiamo vedendo. Certo. Khaled, io ti ringrazio la partita. اول اشي لازم نمتلكو هي المبادرة اسمع افهم استطرت تدريت ناديها محاضرة احنا في مصارة اللي من زمان ثبتونا فيها بينادوها مامرة وعدم وعلي خليها اعرفكم انا بس انا من بلد اسمها اللي فيها اللي بوتها ما بدفع التمن فيها اللي بهدلل ناس اللي عملوا غلطوا بنوا عرضهم وكل اللي بيصير بس عشانهم لوحدهم غير وقف على موقف اللي شرف ودير اللي اقول ويبدأ فهم انه القوة بالمجمع ولا مرة بالمفرد وعادة اذا فكرنا هيك احنا بمفرد عن الكل والغلط انه فكرنا بالكل بس هذا الغلط لانه صح ولازم ودوم ولما قلنا ايدي بايد ما كانش قصنا اصبع ولا تاخد لازم تطلب والقوة بالمجمع مع انه حرفنا خجولة ومش لابسة حرير عرفت برا طرحة دورها لك تجميل الزمن سبقها نسيها ملها تفريق صار قصير راح يكسر قفصه اخيرته يحلق ويطير هدمي بيوت زي الهمس تكون كل ما ضل بسكوت دان الشعب بتفوت بس لو صرخ لا بغرقها في ظهر الحق اسمع بقدر افهم كل عيوني اللي من حزن تدمع بس ما بفهم اللي ما يمسح عيونه تايه يسأل على اللبسه هو قاعد يجدف في دموعه ايش بيصير هنا مال الكل يطلع علينا يمكن عشان احنا اللي فاتحين جرينا يا زلمة المرة هديك مظاهرة ضد هدم بيوت كان فيها 100 واحد 90 منهم يهود اذا اليوم بتوقف تطلع كيف قاعدين بيهجروا جارك بكرة اربع دارك جارك زيك واقف تطلع مكانك السلسلة طويلة بس الها اخر سقوط للقدرة العاجزة شايفة عارفة بس خايفة اذا الرعب فينا ساكنة فرنط بس الفكنة وش بنقول للحلقة الاضعف مع السلامة مع انه حرفنا خجولة ومش لابسة حرير عرفت برا طرحة حياتنا بتمي الصهيونية اللي تنزل فينا وسخها واحنا عمالنا ننستن ولا حدا بيفتح المي ولا حتى احنا والوسخ بيكتر اكتر واكتر هاي اللحظة برجع من وين ما اجا بس كل ما يقرب على الافا الفعل بيصير مفعول فيه وبس بنظف القريب عليه بتأمل انه مرة كله يفور برا تشديدا على كلمة كله وهيك الكل بيوقف عجريه وهيك احنا بنوقف الجدار وهيك احنا بنوقف القطار وسكة الحديد بتصير بعيد عن الدار وبرضه بنوقف حرفنا خجولة ومش لابسة حرير عرفت برا طرحة تانية دورها للتجميل الزمن سبقها نسيها ملها تفريق صار قصير راح يكسر قفصه اخيرته يحلق ويطير مع انه حرفنا خجولة ومش لابسة حرير عرفت برا طرحة تانية دورها للتجميل الزمن سبقها نسيها ملها E la voce che abbiamo ascoltato prima dall'estratto di Radio Onda Rossa, per chi ci ascolta, diciamolo anche, era Khaled Al-Qaisi, un compagno che è stato detenuto in detenzione amministrativa nelle strutture israeliane, e cosa di cui ha reso anche particolare, cui ha raccontato in vari incontri pubblici, per cui appunto quando menzionava anche i rischi che corrono militanti come Anan in caso di estradizione, parlava con estrema cognizione di causa. E fra l'altro detenzione amministrativa, questo va anche detto appunto nel parlare degli intrecci che ci sono fra quello che succede a livello internazionale, quello che succede a livello nazionale, comunque più vicino a noi, la detenzione amministrativa è una delle sperimentazioni israeliane che però vengono abbondantemente adottate nelle altre democrazie del mondo, come in Italia appunto nei CPR, nei centri di rimpatrio. E quindi ecco, questo per precisare una cosa sul contributo che abbiamo ascoltato. Ma adesso vorremmo un po' chiedere al compagno che è con noi in studio di spiegarci un po' meglio come si è strutturato, si è dipanato questo inizio, diciamo anche di intreccio fra la vicenda umana e processuale e politica di Kwan e di Anan. Sì, come dicevo prima, c'è un intreccio di parabole esistenziali legate ai giochi della repressione, che è il fatto di trovarsi nello stesso carcere, ma c'è uno sfondo storico, il tipo di accusa e il contesto in cui tutto questo sta avvenendo. È altamente significativo che il concetto di terrorismo, concetto giuridico, giudiziario, che quando porta degli effetti reali implica anni e anni di galera, venga utilizzato in modo indistinto per un'azione contro una scuola di polizia, anche quella un dato oggettivo, un'azione senza feriti, venga utilizzato per descrivere in modo completamente menzognero, al punto che contraddice persino quello che sostengono gli ipocriti delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, per qualificare la resistenza del popolo palestinese contro il colonialismo di insediamento sionista israeliano. E oggi si arriva addirittura a configurare un reato di terrorismo della parola, quindi vediamo che più si aggrava, vogliamo chiamarla crisi del sistema capitalistico, soprattutto dell'egemonia occidentale, a trazione statunitense nel mondo, più la tendenza alla guerra porta ad una militarizzazione della società che esaspera la repressione senza buttar via niente di tutto quello che ha accumulato nel passato, perché la repressione del dissenso è riassumibile nello slogan vecchio della Prima Guerra Mondiale: taci, il nemico t'ascolta, no? Siamo in guerra, quindi il dissenso non può essere tollerato. Ma il fatto che si utilizzi in maniera sempre più elastica il concetto di terrorismo, mettendo assieme appunto la Palestina e alcune azioni, iniziative in Italia, deve essere tematizzato in modo preciso. Questa alterazione menzognera del linguaggio, dei concetti, proprio questa guerra alle parole ha una storia che comincia nel 1980 con l'introduzione del concetto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, la legge Cossiga, che non soltanto ha aggravato le pene rispetto al codice Rocco fascista, ma ha reso le accuse molto più elastiche, malleabili, adattabili. Ed è esattamente questo lo sfondo, quindi ben venga che un movimento internazionale e internazionalista respinga al mittente l'accusa di terrorismo lanciata contro la resistenza palestinese. Il problema è che questo verminaio di mistificazioni si è radicato attraverso tutto quello che non è stato ricacciato indietro prima. Cioè, se una parte della società comincia a interiorizzare che prima la violenza rivoluzionaria, la lotta armata rivoluzionaria e poi forme di agitazione, di propaganda diciamo con le azioni, con il fatto, sono equiparabili al terrorismo, da quel verminaio lì è difficile uscirne. Ed è esattamente questa un po' la scommessa, che attraverso forse una maggiore lucidità di fronte agli orrori del presente si riesca a recuperare una parte di questa sproporzione di forze che ha permesso al nemico di classe di fare dei passi avanti incredibili, perché senza uno stuolo infinito di decreti, legge, uno più infame dell'altro, di destra e di sinistra, non si sarebbe mai arrivati all'attuale DDL 1660. E voglio ricordare, perché mi aveva molto colpito rileggere quell'articolo, poi ritorno nello specifico su Quan, le iniziative, che nell'80 credo su Controinformazione, una rivista di movimento dell'epoca, uscì un articolo dal titolo La Repubblica Rifondata, un articolo illuminante che invito ascoltatori e ascoltatrici di andare a recuperare e a leggere, no? Perché di fronte all'introduzione della legge Cossiga e quindi dell'utilizzo dell'infamia per colpire il movimento rivoluzionario, perché c'è anche questo, lo sconto per chi collaborava, per chi parlava, eccetera. Allora, quei compagni all'epoca dicevano: il nemico sta facendo dei passi avanti in termini repressivi, tutto questo ovviamente avrà un peso, ma la situazione non è drammatica fino a quando noi, come compagni, come antagonisti, come proletari, non introietteremo nel nostro sistema di valori antagonisti i valori del nemico, che è esattamente quello che è successo, cominciando ad accettare l'equiparazione tra violenza rivoluzionaria e terrorismo. Poco importa la simpatia che uno può avere per questo o quel progetto, per questa o quella organizzazione, ma mettere sullo stesso piano la violenza puntuale, rivoluzionaria, di classe, con la violenza indiscriminata dei padroni, è stato un gigantesco verminaio da cui ancora stentiamo ad uscire. Io spero vivamente che le mobilitazioni il sostegno alla resistenza palestinese contro la guerra ci facciano, come dire, spezzare un po' di questa sproporzione delle forze. E quindi, a partire da questi intrecci, che nello stesso carcere si trova un combattente palestinese e un compagno rivoluzionario italiano e altri rivoluzionari lì da anni e anni e anni, e anche proprio portarlo nelle iniziative, nei ragionamenti. Ad esempio, la prima iniziativa che abbiamo fatto per qua, stiamo parlando di cose piccole, cioè bisogna essere molto, come dire, precisi, modesti, perché tutto ci serve tranne che la retorica. Una delle piccole iniziative che abbiamo fatto per Juan è stato organizzare uno spezzone su questi temi, in solidarietà con lui, durante la manifestazione che c'è stata a Brescia per il 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia. Quindi, per dire, lì, ribadire, stragista è lo Stato, e noi questa cosa veniamo a dirla nel momento in cui lo Stato italiano è direttamente corresponsabile del genocidio del popolo palestinese, perché fornisce armi, collabora in tutta quella rete di complessi scientifico-militari industriali, invia le proprie navi nel Mar Rosso a protezione dell'aggressione da parte dello Stato di Israele, perché quello è il significato. Di fronte a una cosa del genere era molto complicato, e le reazioni non sono state di sicuro tra le più rilassate, andare a contestare in Piazza della Loggia la presenza di Mattarella, cioè il capo dello Stato italiano, che è oggettivamente, persino a livello giuridico, per quello che dice la Corte dell'Aia, che è oggettivamente complice di un genocidio, non può venire a spargere lacrime su dei morti fatti dalla strategia stragista dello Stato italiano. Persino questo è in controtendenza, e questo dovrebbe farci capire il terreno che ha guadagnato il nemico. E quindi per uscire dall'angolo è necessario intrecciare queste cose e quindi fare in modo che il presente riattivi una certa memoria storica. Fa piacere che nella mobilitazione internazionale e internazionalista, ad esempio se uno guarda le iniziative, le azioni negli Stati Uniti o in Australia, la solidarietà con la resistenza palestinese riattiva la memoria del colonialismo, di insediamento di quei paesi. Che nelle azioni di sabotaggio si dica abolire tra virgolette Israele, abolire tra virgolette Australia, vuol dire noi stiamo parlando di una storia che è anche la nostra. Noi siamo un risultato di questa storia. Prima degli Stati Uniti c'erano i nativi, prima dello Stato israeliano c'erano i nativi. Quindi queste democrazie sono fondate sul genocidio. Quello che oggi sta cercando di portare a termine lo Stato di Israele è quello che altri colonialismi di insediamento hanno già realizzato nella storia. Ed è questa la scommessa, e quindi nel dire non provateci neanche, e quindi la solidarietà con Annan quando ci sarà il processo a definire la resistenza palestinese terrorismo, dovrebbe dire anche ci sono ancora prigionieri in Italia da 40 anni che hanno combattuto contro la NATO, contro gli assassini imperialisti della NATO, questi non sono terroristi. Questi sono compagni rivoluzionari, si è d'accordo o non si è d'accordo con la prospettiva, il progetto, eccetera. Terrorismo è colpire indiscriminatamente nel mucchio le popolazioni, quello che fanno gli stati e i padroni. Queste sono questioni da riportare al centro. Senza questo sarà molto difficile riattivare una consapevolezza che sia all'altezza di questa epoca storica. E aggiungo questo aspetto qua, che oltre a quello che è stato detto giustamente per quanto riguarda Khaled, quest'estate è uscito un rapporto di un centro di documentazione sui diritti umani che si chiama B'Tselem, fatto da israeliani anti-apartheid, no? Che si intitola Benvenuti all'inferno. No? Il sistema carcerario israeliano come rete, come network di campi di tortura, con una serie di testimonianze tradotte meritoriamente in italiano dal Centro di Documentazione contro la Guerra di Milano, che non soltanto tolgono il respiro, ma che mettono al centro il fatto che non esiste un sistema penitenziario israeliano nel quale si pratica talvolta o spesso la tortura, ma è l'organizzazione scientifica militare di una rete di campi di tortura. La tortura non è l'eccezione, è l'elemento strutturale su cui si basa un colonialismo di insediamento. E che lo Stato italiano abbia accettato la richiesta di estradizione per farlo finire in un campo di tortura dovrebbe far gelare il sangue nei polsi di chiunque abbia ancora un po' di sangue nei polsi. Quindi questo processo contro Annan deve trasformarsi nel processo, fra virgolette, contro il colonialismo di insediamento e contro le schifose, infami complicità da parte dello Stato italiano. E che in questo contesto di guerre, di morti ammazzati, perché ogni giorno a Gaza di Piazza della Loggia ce ne sono due quando va bene, se no sono tre e quattro, e chi collabora con questo non può venire a parlare dei nostri morti, e chi collabora con questo non può accusare un rivoluzionario, un compagno anarchico di terrorismo. Brutti schifosi, i terroristi siete voi, i nostri compagni no. E riallacciandoci anche un po' a questa riflessione che facevi, c'è anche da dire che se appunto nella democrazia israeliana, che alcuni fra l'altro contributi recenti anche evidenziano come appunto sia di fatto una democrazia, semplicemente una democrazia fondata sull'apartheid, come lo poteva essere il Sudafrica bianco degli anni Ottanta, e Nella democrazia invece italiana esiste ed è sdoganata, è istituzionalizzata la tortura in forma di tortura bianca, oltre ovviamente alle forme di tortura che avvengono in maniera extralegale, però attraverso il 41 bis che è stato esteso ai militanti comunisti in passato e da qualche anno a questa parte ormai anche a un compagno anarchico che è Alfredo Cospito, e con ovviamente anche la minaccia pendente di un'estensione ulteriore di questa cosa ad altri prigionieri dopo che appunto è stata fatta, come dire, l'eccezione. E questo appunto forse un po' ci aiuta anche a mettere assieme questi due, diciamo, percorsi, queste due vicende che non sono sicuramente parallele, però hanno dei punti, diciamo, di contatto. Una specifica giusto anche per chi ci ascolta, perché purtroppo su queste vicende ovviamente non parliamo delle radio come quelle di movimento, come le radio autogestite, auto-organizzate, che hanno provato a parlarne, ma c'è un discreto silenzio anche su quella di Anan Yaesh, è un nome che in Palestina è ampiamente conosciuto, in Italia se ne è parlato però solo dal marzo di quest'anno, quando è stato arrestato assieme a appunto Ali e Mansour, altri due palestinesi. Senza entrare nei dettagli, diciamo, l'accusa che gli è stata fatta è quella di essere di stare progettando delle azioni di tipo definito appunto terroristico, comunque armate in Cisgiordania, quindi non in Italia. Di fatto anche da questo punto di vista è un'operazione per procura che viene fatta dalla giustizia italiana per conto di Israele, e di fare un'apologia, comunque una preparazione, si parla, diciamo, nelle cose uscite sui giornali, cose trapelate, di confezionamento di video di propaganda che inneggiano comunque alla lotta armata in Cisgiordania. Questo è un po', brevemente, spero in maniera non imprecisa, quello di cui sono accusati. La loro vicenda si è un attimo biforcata recentemente, perché la Cassazione ha da una parte negato l'estradizione, che il governo invece non aveva avuto problemi, avrebbe avuto problemi a concedere in Israele, per fondati motivi, diciamo, di temere della propria sicurezza dell'incolumità fisica di Anan, mentre invece appunto per Ali e Mansour doveva esserci un'udienza ieri che avrebbe potuto farli uscire, cosa che non è successa perché appunto l'udienza è stata rinviata il 9 di settembre. Quindi appunto questa è brevemente, per sommi capi, la vicenda di questi compagni palestinesi. Mentre per Juan la prossima data è quella del 12 di settembre, motivo anche per cui è dedicata a questa situazione, questa puntata, e adesso magari mandiamo uno stacco musicale, il tempo di prendere contatto con l'avvocato che si occupa di entrambi i casi e che ci terrà qualche aggiornamento. اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بنضرب حرب الليلة ما بنغلب بدك جبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا نحل اللغز رنيت على نفحة وكل بخش وك شفنا وياما وكله بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان بنفقع بوف نعمل لك حفلة تخش تنط نستقطب مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص استجدع دايما ووعك بوحش انا ادرينالين فاجع بشباب بنضرب الغاز احنا جدعان مش زي نجلير رد بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبة وبدها سلام سيبك من روح واحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكة وصحابي ملان في الجلمة نشنع نعمل غلبة تجينا يا خالي بناخد العتبة تخوف بالليل ندوي لك عتمة بس شوف تنساش انا زي النو سلاح فتاك في بغز رجال تحفر انفاق ترجع بشوال وملان اشلاء بلاجين بلاجين بلاجين بلاجين بالجدعان انا فاتح دكان من بيع شلسات والدم مسموح بس للسباع مكتوب على القرمه قسم لو غاد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا في الشمس نحن الشجعان ان قد انا اوين وبوم بخبط انا بيعمز زينه في بس عرصوته سوليده الشيل حط كله طرح بمكانه وإن أنقد أنا أوينه هم بخ وطن بيع مزينه في بس عرصوته سوليده الشيل حط كله طرح بمكانه حطمت من الرعب من الأرض نطلع زي جين بخ أدي اللعب على هذا نترك على النار لفكار تنبخ إخ تراد ورا حدا إذا بلغ أنا مش مركب بركبش مع حدا أنا فين إن أمكانيك البلد في البقلك ديك بين رع وتغنم أنا جيت أنا ديك لا تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شبايا شحفيتي بديك في فلاشة ما فيش راح أميب أنا يوم بحتاجك أجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدى العدل شاب جديد انا جيك بطور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه قد انا اوينه وهم بخ وطني بيع مزينه في بس عرصوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانه وان ام قد انا اوينه وهم بخ وطني بيع مزينه في بس عرصوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانه ان ام قد انا اوينه وهم بخ وطني بيع مزينه في بس عرصوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانه وان ام قد انا اوينه وهم بخ وطني بيع مزينه في بس عرصوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانه Mentre parlavi del 41 bis, in cui tra gli altri è tuttora rinchiuso l'anarchico Alfredo Cospito, pensavo a questo, perché su sta questione qua abbiamo fatto vari approfondimenti, serate con gente insomma che queste questioni le ha studiate a fondo. Il 41 bis risponde proprio strutturalmente in modo molto preciso a quello che nei manuali della CIA viene definita tortura senza contatto. La tortura non è soltanto sangue sul pavimento, elettrodi ai testicoli, eccetera, ma è anche deprivazione sensoriale, deumanizzazione del prigioniero. Se noi pensiamo alla definizione aristotelica di essere umano come vivente che ha il linguaggio, se tu a un essere umano togli la possibilità di parlare, cosa diventa? Diventa un vivente senza linguaggio, quindi qualcosa che assomiglia sempre di meno a un essere umano, no? Questa cosa qui è apertamente teorizzata nei manuali della CIA. A sua volta, storicamente, i manuali della CIA hanno alle spalle un'esperienza accumulata sul campo, dove in Algeria è la democrazia francese nel colonialismo in Algeria per stroncare il movimento di resistenza anticoloniale lì, che sperimenta tutta una serie di tecniche che poi diventano know-how, competenze scientifico-militari anche della CIA. Questo per dire che tra il colonialismo storico e poi lo sviluppo delle tecniche anche in ambito occidentale e democratico c'è un continuo travaso. La detenzione amministrativa è storicamente un'invenzione del colonialismo, non solo quello di insediamento, quindi i primi campi di detenzione vengono creati in ambito coloniale. Israele prosegue quella tendenza lì. Il fatto che nel 1998 in Italia, con una reazione flebile della società, sia stata introdotta la detenzione amministrativa vuol dire che alcuni pezzi della storia coloniale dalle periferie stanno tornando in centro. Il fatto che oggi un detenuto accusato di, non necessariamente di terrorismo, possono essere anche altre questioni molto più blande, di iniziative di piazza, eccetera, non possa neanche più andare al processo fisicamente come imputato, ma gli venga imposta la videoconferenza, è dentro questo processo di invisibilizzazione del dissenso e di mostrificazione dell'imputato. Cioè, voglio ricordare ai più giovani che i primi processi alle organizzazioni di lotta armata in questo paese si sono fatti nelle aule ordinarie dei tribunali, con un sacco di gente tra il pubblico e gli imputati che prendevano la parola, interrompevano i giudici, eccetera. Adesso, con un semplice click del giudice, la parola del compagno, della compagna o del processato, della processata, scompare. Questo è il prolungamento incorporato, come dire, negli oggetti elettronici, nella tecnica, di un processo storico. In questo senso oggi sul campo, cioè sul tavolo, dal 41 bis alle pratiche di tortura, al ruolo genocida delle democrazie, c'è il rimosso della nostra storia. In questo senso non è soltanto un'epoca di grande orrore, come lo è, che fa piangere, ma è anche un'epoca di possibile riscatto, e credo che questo arrivi al cuore di milioni di oppressi, diseredati, proletari in giro per il mondo, vedendo l'indomita resistenza palestinese. Poter, come un pugile suonato all'angolo, imbroccare il gancio e riprendersi il centro del ring. Niente di meno di questo oggi è parlare di repressione, di guerra, dei compagni nostri. Oltretutto, in tutto questo risuona anche tutta la novità dei CPR in Albania, cioè come ulteriore tassello di invisibilizzazione, appunto, e di scarico, diciamo, su altri territori, altri stati, della questione della detenzione amministrativa, appunto. Quindi neanche sul proprio territorio, quindi senza neanche la possibilità diretta di una lotta, per esempio, anche, insomma, che si faccia sentire fuori dalle mura di queste strutture. E fra l'altro anche rispetto ai dispositivi comunque che vengono sperimentati, repressivi, che vengono sperimentati nelle colonie e poi vengono portati nella cosiddetta, diciamo, patria, effettivamente anche le stesse armi dell'antisommossa, appunto i gas lacrimogeni, sono stati storicamente prima sperimentati nelle colonie, per esempio in Africa piuttosto che in Asia, dalla polizia, dalle forze coloniali britanniche e francesi, e per dire anche gli stessi scudi dell'antisommossa inglese sono stati introdotti la prima volta in Irlanda, che è la colonia, diciamo, più vicina all'Inghilterra, e la prima e la più vicina. Quindi questa cosa le cose che ritornano indietro, appunto, è un po' una tendenza, ed è anche forse la consapevolezza più terrorizzante, ma anche più avanzata, che c'è nel movimento di solidarietà alla Palestina, cioè l'idea che il genocidio che è in corso non sia qualcosa che rimane confinato lì, ma potenzialmente si può anche estendere, perché questa è una riflessione che ci viene anche da alcuni testi oltreoceano negli Stati Uniti. Un genocidio non finisce mai, si nutre sempre di qualcosa, e lo stesso olocausto, che poi si compone di vari altri genocidi, etnocidi, che possono essere quello degli omosessuali piuttosto che dei nomadi, piuttosto che di altre, chiamiamole, minoranze, è stato preceduto da genocidi coloniali fatti dallo Stato tedesco contro gli Herero, per esempio, in Africa. Quindi, appunto, prima si inizia con quelli totalmente altri, poi attraverso anche la mostrificazione si arriva alle persone, diciamo, più vicine. E questo sicuramente è un altro elemento che c'è in parte nelle piazze, ma su cui si dovrebbe forse anche riflettere un po' di più. أقسم الأمين العام هدد أحمد سعدات أقسم الأمين العام هدد أحمد سعدات استنفار النصور لا جمع المعلومات استنفار النصور لا جمع المعلومات عن وزارة إسرائيل عن وزارة إيمون عن وزارة إسرائيل عن وزارة إيمون في ذكرى الأربعين سقطت ورقات التوت في ذكرى الأربعين سقطت ورقات التوت سبعة عشر أكتوبر زغرت كاتيب الصوت سبعة عشر أكتوبر زغرت كاتيب الصوت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت خطط مجدي خطط واقتحم الأوتيلات خطط مجدي خطط واقتحم الأوتيلات كتائب أبو علي جوازات مزورات كتائب أبو علي جوازات مزورات الأسمر والقرعان رداد بأعلى صوت الأسمر والقرعان رداد بأعلى صوت يا زيف الحقير والله إيجاك الموت يا زيف الحقير والله إيجاك الموت 17 أكتوبر زغرت كاتيم الصوت 17 أكتوبر زغرت كاتيم الصوت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت الأول في كل الإذاعات كان الخبر الأول في كل الإذاعات كتائب أبو علي تحترف الاغتيالات كتائب أبو علي تحترف الاغتيالات الصفحات الأولى معرف ويديعون الصفحات الأولى معرف ويديعون كانت صورة كبيرة لزقة في التابوت كانت صورة كبيرة لزقي في التابوت لجلك عيمد مبروك حدينا الدبابات لجلك عيمد مبروك حدينا الدبابات طلقة من مسدس قنص المخابرات طلقة من مسدس قنص المخابرات رد النصر سريع منتظروا ثاني يوم رد النصر سريع منتظروا ثاني يوم كتائب أبو علي شاب الطار المحتوم كتائب أبو علي شاب الطار المحتوم 17 أكتوبر زغرت كاتيم الصوت 17 أكتوبر زغرت كاتيم الصوت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت تشرب نبيد دخن سيجارة تحكي سياسي الجسد للأرض انت ما روح للسماء في طريق في طريق مش سهل بين نفسي وبين أنا غيوم مش بس بالسماء Just a little love. adesso abbiamo in collegamento con noi l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che, come appunto abbiamo detto anticipato prima, è avvocato sia di Anan Yaesh che di Juan Soroche. E lasciamo la parola a Flavio, che ci aggiornerà brevemente su quali sono i passaggi di queste due distinte vicende processuali. Sì, ciao. Allora, guarda, detta così un po' generica come domanda, però provo a dare riscontro. Allora, il prossimo passaggio per quanto riguarda Juan è l'udienza della prossima settimana. Il 12 giudici della Corte d'Assise di Brescia dovranno sciogliere la riserva che avevano adottato alla scorsa udienza in ordine all'ammissibilità delle prove richieste dal Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero bresciano ha depositato una lunga, articolata lista testi con la quale vorrebbe dimostrare la paternità, l'attribuzione dell'attentato a Juan. E in quell'udienza, a mio giudizio, ho evidenziato ai giudici che in realtà tantissimi dei testi indicati in lista, per cui che vorrebbero sentiti secondo desiderata della procura al processo, in realtà riguardano altro indagato, per il quale è stata definitivamente chiusa per la terza volta, si diceva, mi risulta in realtà per la seconda, comunque per la terza volta, con un decreto di archiviazione. Per cui è stato denunciato, diciamo, la surrettizia forma di tentare di introdurre dei testimoni che in realtà non riguarderebbero la posizione di Juan Soroche, che è l'unico imputato di questo processo, ma bensì si tenderebbe a estendere il perimetro probatorio fino a coinvolgere e a ricomprendere un soggetto che non è imputato e pertanto non ha neanche un difensore presente. È probabilmente una tecnica, diciamo, una delle tecniche in corso di sperimentazione da parte della DNA, e abbiamo trovato che nel corso dei processi che ho seguito io, che ormai sono dei format proprio delle prassi di approccio ai processi che tendono a essere ripetute nelle diverse vicende processuali, questa rappresenterebbe un pochino un'anomalia, perché attraverso un'acquisizione probatoria di un processo compiuto contro altro soggetto si prova a individuare o a far emergere degli elementi utili per una persona che non è invece processata, ma anzi la cui posizione è stata archiviata. Per cui questo riguarda non solo la lista dei testimoni che è stata richiesta, ma riguarda anche le intercettazioni per le quali è richiesta la trascrizione, nonché la stessa prova documentale. Tutte emergenze, tutti i tentativi che sono convergenti verso appunto un soggetto che era stato originariamente ritenuto partecipe insieme a Juan Soroche di questo attentato, ma che in realtà nel corso delle indagini preliminari non ha trovato alcun elemento di riscontro. Per cui questo avverrà il 12, per cui verrà sciolta questa riserva, i giudici dovranno pronunciarsi se effettivamente è coerente e conforme al codice di procedura penale questo tentativo compiuto dalla procura, oppure se appunto, tra l'altro, c'è una riforma Cartabia che in realtà lo impedirebbe in nuce, oppure appunto se è da respingere come un surrettizio tentativo di raggiungere degli elementi probatori attraverso delle forme che però non sono consentite. Quindi il 12 ci sarà, per cui, questo pronunciamento da parte della Corte e poi l'indicazione di un calendario di udienze che verosimilmente vedranno transitare i principali organi dell'antiterrorismo, non solo di Brescia ma anche delle altre questure che hanno collaborato a questa indagine, perché per la vicenda di Juan Soroche c'è stata una collaborazione ampia da parte non solo della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, che è quella struttura che è l'ex UCIGOS, ovvero il coordinamento delle DIGOS a livello nazionale, ma bensì anche di questure di diverse città. Per cui immaginiamo che i primi testi che verranno esclusi saranno loro. Per quanto riguarda invece la chiaramente non so se si è detto, ma Juan partecipa sempre in videoconferenza, perché oramai con l'introduzione del 146 bis delle disposizioni di attuazione per i reati di terrorismo non c'è alcuna possibilità di partecipare di persona alle udienze, per cui diciamo sostanzialmente la partecipazione è sempre una cosa molto eterea, perché c'è un televisore nel quale è rappresentata la figura di un soggetto che normalmente, ordinariamente neanche è ben visibile e che partecipa in questa forma, ma su questo penso che ne abbiate già parlato, comunque è stato oggetto diciamo di campagne, di discussioni, di confronti nel passato. Per quanto riguarda Nan, la sua vicenda cautelare più che processuale, perché stiamo parlando di un subprocedimento incidentale, praticamente quello che abbiamo fatto fino adesso è discutere solo se vi fossero gravi indizi di colpevolezza e fosse effettivamente ricorrente questa imputazione che ha una connotazione terroristica. E per lui si è pronunciata anche la Cassazione, ritenendo che effettivamente ricorrano sia la sussistenza del reato che la gravità indiziaria. Diversamente invece per gli altri due indagati palestinesi, per cui per Mansour e Ali, per i quali la Cassazione ha ritenuto di annullare la misura cautelare individuando dei vulnus, diciamo delle mancanze, delle carenze argomentative dei giudici, i quali si sarebbero mal confrontati con la complessa vicenda giuridica che attiene alla dinamica dell'occupazione israeliana in Cisgiordania, ovvero il diritto internazionale umanitario, delle convenzioni di Ginevra e di quant'altro. Penso che ne avete già discusso in passato, per cui non diciamo tendo a sorvolare su questo. E comunque c'è stata in realtà l'udienza, però siccome non erano stati i citati a comparire, per cui sostanzialmente non era stata disposta la videoconferenza con i due indagati, sostanzialmente su eccezione difensiva abbiamo chiaramente sollevato la questione di nullità, perché non erano stati messi in condizioni di partecipare all'udienza. Il Tribunale della Libertà dell'Aquila ha dovuto rinviare a lunedì prossimo, disponendo appunto la loro partecipazione. Considerate che in questo caso partecipazione è essenziale, perché il pubblico ministero nel frattempo ha depositato ulteriori 600 pagine di indagini per tentare di colmare quei vuoti argomentativi, con vuoti probatori, indiziari che erano stati evidenziati da parte della Corte di Cassazione. In realtà, se posso aggiungere due parole su questo, la Corte di Cassazione si è rifatta nel momento in cui ha confermato per Anan e annullato per gli altri due, e si è riportata a quello che sono dei precedenti giudiziari anche italiani, che riprendono la Convenzione di New York del 99 sulla prevenzione e il finanziamento al terrorismo, e prevenzione e repressione e finanziamento al terrorismo, che individua anche nelle aree di occupazione, per cui come la Cisgiordania, territori occupati, e ce l'ha ripetuto ultimamente la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite, che quelli sono territori occupati da cui Israele e i coloni dovrebbero essere allontanati per restituirli ai loro legittimi detentori, che sia il popolo palestinese, ma tutto si gioca sul diritto di resistenza. Appunto la Convenzione di Ginevra consente, le quattro Convenzioni di Ginevra e i due protocolli aggiuntivi consentono alle popolazioni occupate una legittima difesa internazionale, si dice, cioè quel diritto all'autodeterminazione che può essere conseguito anche attraverso la lotta armata. Però appunto siccome quelle quattro Convenzioni di Ginevra sono state approvate da paesi che ancora in quegli anni, ma come oggi d'altronde, erano proprio i paesi occupanti, erano i paesi colonialisti, e hanno posto delle limitazioni. Tra queste limitazioni la principale, che tende sostanzialmente a svilire quel diritto stesso, è quello di non poter in alcun modo coinvolgere quella che è considerata la popolazione civile. Popolazione civile per quanto riguarda l'occupazione in Israele, che appunto essendo un colonialismo di insediamento sono i coloni, per cui i giudici della Cassazione hanno ritenuto sussistente un attentato, quantomeno nella forma indiziaria propria di questa fase, di questa prima fase, che è quella delle indagini preliminari, per quanto riguarda Anan, ovvero di essere stato un suggeritore ispiratore in un attentato nella colonia di Abni Efes in Cisgiordania. Secondo loro, uno degli attentati programmati da questo gruppo, da questa organizzazione operante in Cisgiordania, e che avrebbe visto Anan nel ruolo di in un ruolo qualificato, quello di organizzatore, finanziatore, diciamo, di questo raggruppamento, che sono le brigate di risposta rapida di Tulkarem, e appunto avrebbe visto il superamento di questo, che è il, di questo diritto legittimo alla resistenza, di questo diritto legittimo al conseguimento dell'autodeterminazione. Diversamente per gli altri due, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente affermato che non vi fossero prove, visto che questo è l'elemento centrale che consente di transitare dal legittimo al sanzionabile giuridicamente il gruppo stesso operante in Cisgiordania, appunto questo superamento di questo limite rappresentato dal coinvolgimento dei civili nella lotta per l'autodeterminazione, non ha rinvenuto elementi che invece collegassero gli altri due indagati a questo attentato, né da un punto di vista di conoscenza né da un punto di vista di partecipazione attiva, per cui si è posto un problema, ovvero che per partecipare a un'organizzazione, qualunque essa sia, bisogna essere a conoscenza di quali sono effettivamente le finalità che si promuove la stessa, perché la partecipazione è sorretta da un dolo che si chiama specifico, per cui io devo volere partecipare a quell'associazione che ha quelle determinate caratteristiche. In assenza di consapevolezza, chiaramente verrebbe meno anche la possibilità di transitare la loro condotta, anche se si rinvenisse una condotta partecipativa, all'interno dell'illegittimo e pertanto del penalmente sanzionabile. Questo è quello che dovrà essere giudicato sostanzialmente, cioè per cui l'udienza di lunedì dovrà dire questo, se ci sono elementi che li colleghino a questo attentato. Dimmi tu. Grazie. Flavio, purtroppo noi dobbiamo salutarti perché siamo in conclusione, e ti ringraziamo molto per questa sintesi molto preziosa, penso anche per chi ascolta, e soprattutto di averci dedicato del tempo, visto che ti sappiamo oberato di impegni. Speriamo di risentirti anche con buone notizie rispetto a queste vicende, se non su questi microfoni, su quelli delle radio che sono parte di questo Ponte Radio. E intanto grazie mille. Grazie a voi, grazie. Allora, ciao, buona trasmissione. Ciao, ciao. E in chiusura, giusto, velocemente ricordiamo che c'è un appuntamento importante per il 5 ottobre, su cui c'è un appello internazionale delle comunità palestinesi dagli Stati Uniti e non solo, anche ebree antisioniste, per la mobilitazione in occasione di un anno di genocidio, che è un anno di resistenza. Però anche in Italia ci sarà un corteo a Roma con orario e luogo da definire, che il governo, al momento la notizia di oggi è stata ricordata anche prima da Khaled nell'ospezione che abbiamo messo in onda, vorrebbe vietare. E sempre a Roma ci sarà questa domenica un'assemblea al centro sociale Ex Esnia alle ore 10 contro il DDL 1660, meglio noto anche come pacchetto sicurezza, che è quello che vorrebbe essere la pietra tombale sulle lotte future e presenti. Per le lotte invece di ieri abbiamo dei compagni e delle compagne che sono nelle prigioni, e per questi appunto la mobilitazione anche per loro continua e va intrecciata. E con questo vorremmo anche salutare appunto chi ci ascolta dalle carceri, in particolare anche da Terni. Sì, ne approfitto per mandare un saluto ad Anan, se ascolta, gli altri compagni che sono in AS2, e un grande abbraccio all'amico Juanito, con cui mi scuso se ha ascoltato, perché gli ho regalato 3 anni di galera in più, che già ne ha tanti, in realtà in secondo grado per la vicenda di Villorba, Treviso, la sede della Lega, ha preso 14 anni e non 17. Scusa Juanito, un abbraccio.